Volume 2. Aha, si cambia l'atmosfera. Ah, sono fiero di aver regalato un ritornello per questa canzone. E io come al solito, con carta e penna in mano, dai ci siamo. Un altro pezzo per provare a dimostrarvi come siamo. Combattiamo tutti i giorni con le insidie della vita, con sta fotta che aiuta ad alleggerire la fatica. Scrivo un testo e sogno di cantarlo ad un concerto pieno. Poi ritorno alla realtà, 100 persone anche di meno. Io mi dimeno nel sonno elaborando nuove rime. Stesso gene di mio nonno che è lassù e mi sta a sentire. Avrei tante cose da dire ma basterebbe un abbraccio. Ho bisogno della tua forza se non ce la faccio. Di questa vita io non son contento. 8 ore al giorno chiuso in ditta per una merdata di stipendio. E penso che la vita regali non me ne ha fatto. Ogni giorno mi sveglio e penso che pure oggi combatto. Si va con umiltà che i soldi messo è fatto. Io stronzo sto a sperare in un rinnovo di contratto. Io la seguirò, non posso più mollare. La vita è quel che ha tolto. Ma finché vivrò non mollerò. A respirare, rimpiango quel che ho perso, ma finché vivrò io voglio fare. Rappresento Bolzaneto nell'hip hop, lo porto dentro e sarò fiero di essere nato qua e finché vivrò. Viderò al mondo la mia rabbia ma non sente nessuno. Combatterò per ciò in cui credo anche se tutti contro uno. Fra la fame avuta in strada che mi ha cresciuto così. La mentalità non cambia anche se poi con gli anni cresci. E vedi che le cose sono cambiate da quel dì. Che non trovi lavoro manco se con la laurea riesci. Ma anche se non riesci subito vai avanti e non disperare. Conti con la vita alla fine li dovrai fare. Ed è normale che ogni tanto capita se sentirsi giù, l'importante è rialzarsi e non sprofondare mai più. Anche se dura e non ti gira e non c'è più la lira, quello che vedi in TV che trina, certe volte attira e tira forte che devi essere cinico e segnare. Ma quelli come noi non basta il gol, lo vogliamo spettacolare. Il suo cuore è spezzato a metà, è perché la vita è una scommessa. Il lieto fine non gira tra i fra, finisce sempre con una birra, una cannetta. Io la seguirò, non posso più mollare. La vita è quel che ha tolto, ma finché vivrò non mollerò mai più. Odio quel che ho, non riesco a respirare. Rimpiango quel che ho perso, ma finché vivrò io voglio fare gol. Bisogna sempre raggiungere un obiettivo, mai farsi abbattere. Mai.